Primo atto di La locandiera di Carlo Goldoni. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. La locandiera di Carlo Goldoni. Primo atto. Scena prima, sala di locanda, il marchese di Forlipopoli ed il conte d'Alba Fiorita. Fra voi e me vi è qualche differenza. Sulla locanda tanto vale il vostro denaro quanto vale il mio. Ma se la locandiera usa me delle distinzioni, mi si convengono più che a voi. Per qual ragione? Io sono il marchese di Forlipopoli. Ed io sono il conte d'Alba Fiorita. Sì, conte. Contea comprata. Io ho comprato la contea quando voi avete venduto il marchesato. Oh, basta. Son chi sono e mi si deve portare rispetto. Chi ve lo perde il rispetto? Voi siete quello che con troppa libertà parlando. Io sono in questa locanda perché amo la locandiera. Tutti lo sanno. E tutti devono rispettare una giovane che piace a me. Oh, questa è bella. Voi mi vorreste impedire ch'io amassi Mirandolina? Perché credete ch'io sia in Firenze? Perché credete ch'io sia in questa locanda? Oh, bene. Voi non farete niente. Io no, e voi sì? Io sì, e voi no. Io son chi sono. Mirandolina ha bisogno della mia protezione. Mirandolina ha bisogno di denari e non di protezione. Denari? Non ne mancano. Io spendo uno zecchino il giorno, signor Marchese, e la regalo continuamente. Ed io, quel che fo, non lo dico. Voi non lo dite, ma già si sa. Non si sa tutto. Sì, caro signor Marchese, si sa. I camerieri lo dicono. 3 paoletti il giorno. A proposito di camerieri, vi è quel cameriere che ha nome Fabrizio. Mi piace poco. Parmi che la locandiera lo guardi assai di buon occhio. Può essere che lo voglia sposare. Non sarebbe cosa mal fatta. Sono 6 mesi che è morto il dì le padre. Solo una giovane alla testa di una locanda si troverà imbrogliata. Per me, se si marita, le ho promesso 300 scudi. Se si mariterà, io sono il suo protettore e farò io, e so io quello che farò. Venite qui, facciamola da buoni amici, diamole 300 scudi per uno. Quel che io faccio, lo faccio segretamente, e non me ne vanto. Son chi sono. Chiama. Chi è di là? Da sé. Spientato, povero e superbo. Scena seconda. Fabrizio ed Etti. Al marchese. Mi comandi, signore. Signore, chi ti ha insegnato la creanza? La perdoni. A Fabrizio. Ditemi, come sta la padroncina? Sta bene, illustrissimo. È alzata dal letto? Illustrissimo sì. Asino. Perché illustrissimo, signore? Che cos'è questo illustrissimo? È il titolo che ho dato anche a quell'altro cavaliere. Tra lui e me vi è qualche differenza. A Fabrizio. Sentite? Piano al conte. Dice la verità, ci è differenza, me ne accorgo nei conti. Di alla padrona che venga da me, che le ho da parlare. Eccellenza, sì. Ho fallato questa volta? Va bene. Sono 3 mesi che lo sai, ma sei un impertinente. Come comanda, eccellenza? Vuoi vedere la differenza che passa fra il marchese e me? Che vorreste dire? Tieni, ti dono uno zecchino. fa che anch'egli ti doni un altro. Al conte. Grazie, illustrissimo. Al marchese. Eccellenza. Non getto il mio, come i pazzi. Vattene. Al conte. Illustrissimo signore, il cielo la benedica. Eccellenza. Da sé. Rifinito. Fuor del suo paese non vogliono esser titoli per farsi stimare, vogliono esser quattrini. Parte. Scena terza. Il marchese ed il conte. Voi credete di soverchiarmi con i regali, ma non farete niente. Il mio grado val più di tutte le vostre monete. Io non apprezzo quel che vale, ma quello che si può spendere. Pendete pure a rotta di collo. Mirandolina non fa stima di voi. Con tutta la vostra gran nobiltà, credete voi di essere da lei stimato? Vogliono essere denari? Che denari? Vuol essere protezione, essere buono in un incontro di fare un piacere. Sì. Esser buono in un incontro di prestar 100 doppie. Farsi portar rispetto bisogna. Quando non mancano denari, tutti rispettano. Voi non sapete quel che vi dite. L'intendo meglio di voi. Scena quarta. Il cavaliere di Ripafratta dalla sua camera e detti. Amici, che cos'è questo rumore? Vi è qualche dissensione fra di voi altri? Si disputava sopra un bellissimo punto. Il conte disputa meco sul merito della nobiltà. Io non levo il merito alla nobiltà, ma sostengo che per cavarsi dei capricci vogliono essere denari. Veramente, marchese mio? Orsù, parliamo d'altro. Perché siete venuti a simil contesa? Per un motivo il più ridicolo della terra. Sì, bravo. Il conte mette tutto in ridicolo. Il signor marchese ama la nostra locandiera. Io l'amo ancor più di lui. Egli pretende corrispondenza come un tributo alla sua nobiltà. Io la spero come una ricompensa alle mie attenzioni. Pare a voi che la questione non sia ridicola? Bisogna sapere con quanto impegno io la proteggo. Al cavaliere. Egli la protegge ed io spendo. In verità, non si può contendere per ragione alcuna che io meriti meno. Una donna vi altera? Vi scompone? Una donna? Che cosa mai mi conviene sentire? Una donna? Io certamente non vi è pericolo che per le donne abbia che dir con nessuno. Non le ho mai amate, non le ho mai stimate, e ho sempre creduto che sia la donna per l'uomo una infermità insopportabile. In quanto a questo, poi, Mirandolina ha un merito straordinario. Sin qua il signor Marchese ha ragione. La nostra padroncina della locanda è veramente amabile. Quando l'amo io, potete credere che in lei vi sia qualche cosa di grande. In verità mi fate ridere. Che mai può avere di così stravagante costei che non sia comune all'altre donne? Ha un tratto nobile, che incatena. È bella, parla bene, veste con pulizie e di un ottimo gusto. Tutte cose che non vogliono un fico. Sono 3 giorni ch'io sono in questa locanda e non mi ha fatto specie veruna. Guardatela, e forse ci troverete di buono. Pazzia. L'ho veduta benissimo. È una donna come l'altre. Non è come l'altre. Ha qualche cosa di più. Io, che ho praticato le prime dame, non ho trovato una donna che sappia unire, come questa, la gentilezza e il decoro. Cospetto di Bacco. Io son sempre stato solito trattar donne. Ne conosco i difetti ed il loro debole. Pure con costei, nonostante il mio lungo corteggio e le tante spese per essa fatte, non ho potuto toccarle un dito. Arte, arte sopraffina. Poveri gonzi, lo credete, eh? a me non la farebbe. Donne, alla larga, tutte quante elle sono. Non siete mai stato innamorato? Mai, né mai lo sarò. Hanno fatto il diavolo per darmi moglie, né mai l'ho voluta. Ma siete unico della vostra casa. Non volete pensare alla successione? Ci ho pensato più volte, ma quando considero che per aver figliuoli mi converrebbe soffrire una donna, mi passa subito la volontà. Che volete voi fare delle vostre ricchezze? Godermi quel poco che ho con i miei amici. Bravo, cavaliere, bravo. Ci goderemo. E alle donne non volete dar nulla? Niente affatto. A me non ne mangiano sicuramente. Ecco la nostra padrona. Guardatela, se non è adorabile. Oh, la bella cosa. Per me stimo più di lei 4 volte un bravo cane da caccia. Se non la stimate voi, la stimo io. Ve la lascio, se fosse più bella di Venere. Scena quinta. Mirandolina e Detti. Mi inchino a questi cavalieri. Chi mi domanda di lor signori? Io vi domando, ma non qui. Dove mi vuole, eccellenza? Nella mia camera. Nella sua camera? Se ha bisogno di qualche cosa, verrà il cameriere a servirla. Al cavaliere. Che dite di quel contegno? Al marchese. Quello che voi chiamate contegno, io lo chiamerei temerietà, impertinenza. Cara Mirandolina, io vi parlerò in pubblico. Non vi darò l'incomodo di venire nella mia camera. Osservate questi orecchini. Vi piacciono? Belli. Sono diamanti, sapete? Oh, li conosco. Me ne intendo anch'io dei diamanti. E sono al vostro comando. Piano al conte. Caro amico, voi li buttate via. Perché Perché mi vuole ella donare quegli orecchini? veramente sarebbe un gran regalo. Ella ne ha dei più belli al doppio. Questi sono legati alla moda. Vi prego riceverli per amor mio. Da sé. Oh, che pazzo. No, davvero, signore. Se non li prendete, mi disgustate. Non so che dire. Mi preme tenermi amici gli avventori della mia locanda. Per non disgustare il signor conte, li prenderò. Da sé. Oh, che forca. Al cavaliere. Che dite di quella prontezza di spirito? Al conte. Bella prontezza. Ve li mangia e non vi ringrazia nemmeno. Veramente, signor Conte, vi siete acquistato gran merito. Regalare una donna in pubblico per vanità. Mirandolina, vi ho da parlare a quattro occhi, fra voi e me. Son cavaliere. Da sé. Che arsura, non gliene cascano. Se altro non mi comandano, io me ne andrò. Con disprezzo. Ehi, padrona, la biancheria che mi avete dato non mi gusta. Se non ne avete di meglio, mi provvederò. Signore, ve ne sarà di meglio. Sarà servita, ma mi pare che la potrebbe chiedere con un poco di gentilezza. Dove spendo il mio denaro, non ho bisogno di far complimenti. Mirandolina. Compatitelo, egli è nemico capitale delle donne. Che non ho bisogno d'essere da lei compatito. Povere donne, che cosa le hanno fatto? Perché così crudele con noi, signor cavaliere? Basta così. Con me non vi prendete maggior confidenza. Cambiatemi la biancheria. La manderò a prender per il servitore. Amici, vi sono schiavo. Parte. Scena sesta. Il marchese, il conte e Mirandolina. Che uomo selvatico! Non ho veduto il compagno. Cara Mirandolina, tutti non conoscono il vostro merito. In verità, son così stomacata dal suo mal procedere che ora lo licenzio addirittura. Sì, e se non vuole andarsene, ditelo a me, che lo farò partire immediatamente. fate pur uso della mia protezione. E per il denaro che aveste a perdere, io saprirò e pagherò tutto. Piano, ammirando Lina. Sentite, mandate via anche il marchese, che pagherò io. Grazie, signori miei, grazie. Ho tanto spirito che basta per dire a un forestiere che io non lo voglio e circa l'utile la mia locanda non ha mai camere in ozio. Scena settima. Fabrizio e Detti. Al conte. Illustrissimo, c'è uno che la domanda. Sai chi sia? Credo che egli sia un legatore di gioie. Piano a Mirandolina. Mirandolina, giudizio, qui non istate bene. E parte. Oh, sì, mi ha da mostrare un gioiello. Mirandolina, quegli orecchini, voglio che li accompagniamo? Eh no, signor conte. Voi meritate molto, ed io i denari non li stimo niente. Vado a vedere questo gioiello. Addio, Mirandolina. Signor Marchese, la riferisco. Parte. Scena ottava. Il Marchese e Mirandolina. Da sé. Maledetto conte, con questi suoi denari mi ammazza. In verità il signor conte si incomoda troppo. Costoro hanno 4 soldi e li spendono per vanità, per albagia. Io li conosco, so il viver del mondo. Il viver del mondo lo so ancor io. Pensano che le donne della vostra sorta si vincano con i regali. I regali non fanno male allo stomaco. Io crederei di farvi un'ingiuria, cercando di obbligarvi con i donativi. Oh, certamente il signor Marchese non mi ha ingiuriata mai. E tali ingiurie non ve le farò. Lo credo sicurissimamente. Ma dove posso? Comandatemi. Bisognerebbe che io sapessi in che cosa può, vostra eccellenza. In tutto. Provatemi. Ma verbigrazia, in che? Perbacco. Avete un merito che sorprende. Troppe grazie, eccellenza. Ah, direi quasi uno sproposito, ma le direi quasi la mia eccellenza. Perché, signore? Qualche volta mi auguro di essere nello stato del conte. Per ragione forse dei suoi denari? Che denari? Non li stimo un fico, se fossi un conte ridicolo come lui. Che cosa farebbe? Cospetto del diavolo. Vi sposerei. Parte. Scena nona. Mirandolina, sola. Che mai ha detto? L'eccellentissimo signor Marchese Arsura mi sposerebbe. Eppure, se mi volesse sposare, vi sarebbe una piccola difficoltà. Io non lo vorrei. Mi piace l'arrosto e del fumo non so che farne. Se avessi sposati tutti quelli che hanno detto volermi, avrei pure tanti mariti. Quanti arrivano a questa locanda, tutti di me si innamorano. Tutti mi fanno i cascamorti. E tanti mi esibiscono di sposarmi addirittura. E questo signor cavaliere rustico, come un orso, mi tratta sì bruscamente. Questi è il primo forestiere capitato alla mia locanda il quale non abbia avuto piacere di trattare con me. Non dico che tutti in un salto s'abbiano a innamorare, ma disprezzarmi così è una cosa che mi muove la bile terribilmente. È nemico delle donne? Non le può vedere? Povero pazzo, non avrà ancora trovato quella che sappia fare, ma la troverà. E chissà che non l'abbia trovata? Con questi per l'appunto mi ci metto di picca. Quei che mi corrono dietro presto presto mi annoiano. La nobiltà non fa per me, la ricchezza la stimo e non la stimo. Tutto il mio piacere consiste in vedermi servita, vagheggiata, adorata. Questa è la mia debolezza e questa è la debolezza di quasi tutte le donne. A maritarmi non ci penso nemmeno, non ho bisogno di nessuno. Vivo onestamente e godo la mia libertà. Tratto con tutti. Ma non mi innamoro mai di nessuno. Voglio burlarmi di tante caricature di amanti spasimati e voglio usare tutta l'arte per vincere, abbattere, conquassare quei cuori barbari e duri che sono nemici di noi, che siamo la miglior cosa che abbia prodotto al mondo la bella madre natura. Scena decima. Fabrizio ed Etta. Ehi, padrona! Quel Che cosa c'è? forestiere che è alloggiato nella camera di mezzo grida della biancheria, dice che è ordinaria e che non la vuole. Lo so, lo ha detto anche a me e voglio servire. Benissimo, venitemi dunque a mettere fuori la roba che gliela possa portare. Andate, andate, gliela porterò io. Voi gliela volete portare? Io. Bisogna che vi prema molto questo forestiere. Tutti mi premono. Badate a voi. Da sé. Già me ne avvedo, non faremo niente. Ella mi lusinga, ma non faremo niente. Da sé. Povero sciocco, ha delle pretensioni. Voglio tenerlo in speranza perché mi serva con fedeltà. Si è sempre costumato che i forestieri li serva io. Voi con i forestieri siete un poco troppo ruvido. E voi siete un poco troppo gentile. So quel che fo. Non ho bisogno di correttori. Perché, Bene, bene. Provvedetevi di cameriere. signor Fabrizio, è disgustato di me? Vi ricordate voi che cosa ha detto a noi due vostro padre prima che gli morisse? Sì, quando mi vorrò maritare, mi ricorderò di quel che ha detto mio padre. Ma io sono delicato di pelle, certe cose non le posso soffrire. Tu chi io mi sia, una frasca, una civetta, una pazza? Mi meraviglio di te. Che voglio fare io dei forestieri che vanno e vengono? Se li tratto bene, lo fo per il mio interesse, per tenere in credito la mia locanda. Dei regali non ne ho bisogno. Per fare all'amore, uno mi basta e questo non mi manca. E so chi merita e so quello che mi conviene. E quando vorrò maritarmi, mi ricorderò di mio padre. E chi mi avrà servito bene non potrà lagnarsi di me. Son grata. Conosco il merito, ma io non sono conosciuta. Basta, Fabrizio, intendetemi se potete. Parte. Chi può intenderla è bravo davvero. Ora pare che la mi voglia, ora che la non mi voglia. Dice che non è una frasca, ma vuol fare a suo modo. Non so che dire, staremo a vedere. Ella mi piace, le voglio bene, accomoderei con essa i miei interessi per tutto il tempo di vita mia. Bisognerà chiudere un occhio e lasciar correre qualche cosa. Finalmente i forestieri vanno e vengono. Io resto sempre. Il meglio sarà sempre per me. Parte. Scena undicesima. Camera del cavaliere. Il cavaliere ed un servitore. Illustrissimo, hanno portato questa lettera. Il Portami la cioccolata. servitore parte. Il cavaliere apre la lettera. Siena, 1° gennaio 1753. Chi scrive? Orazio Taccagni. Amico carissimo, la tenera amicizia che a voi mi lega mi rende sollecito ad avvisarvi essere necessario il vostro ritorno in patria. È morto il conte Manno. Povero cavaliere, me ne dispiace. Ha lasciato la sua unica figlia nubile erede di 150.000 scudi. Tutti gli amici vostri vorrebbero che toccasse a voi una tal fortuna e vanno maneggiando. Non s'affatichino per me, che non voglio saper nulla. Lo sanno pure che io non voglio donne per i piedi. E questo mio caro amico, che lo sa più d'ogni altro, mi secca peggio di tutti. Straccia la lettera. Che importa a me di 150.000 scudi? Finché son solo, mi basta meno. Se fossi accompagnato, non mi basterebbe assai più. Moglie a me, piuttosto una febbre quartana. Scena dodicesima. Il marchese è detto. Amico, vi contentate che io venga a stare un poco con voi? Mi fate onore. Almeno fra me e voi possiamo trattarci con confidenza. Ma quel somaro del conte non è degno di stare in conversazione con noi. Caro marchese, compatitemi. Rispettate gli altri, se volete essere rispettato pure voi. Sapete il mio naturale. Io fo le cortesie a tutti, ma colui non lo posso soffrire. Non lo potete soffrire perché vi è rivale in amore. Vergogna, un cavaliere della vostra sorta innamorarsi di una locandiera. Un uomo savio, come siete voi, correr dietro a una donna. Cavaliere mio, costei mi ha stregato. Oh, pazzie, debolezze, che stregamenti! Che vuol dire che le donne non mi stregheranno? Le loro fattucchierie consistono nei loro vezzi, nelle loro lusinghe, e chi ne sta lontano, come faccio io, non c'è pericolo che si lasci ammaliare. Basta. Ci penso e non ci penso. Quel che mi dà fastidio e che mi inquieta è il mio fattor di campagna. Vi ha fatto qualche porcheria? Mi ha mancato di parola. Scena tredicesima. Il servitore con una cioccolata e detti. Oh, mi dispiace. Al servitore. Fanne subito un'altra. In casa per oggi non ce n'è altra, illustrissimo. Bisogna che ne provveda. Al marchese. Se vi degnate di questa. Marchese prende la cioccolata e si mette a berla senza complimenti, seguitando poi a discorrere e bere. Questo mio fattore, come io vi diceva, Beve. Da sé. Ed io resterò senza. mi aveva promesso mandarmi con l'ordinario. Beve. 20 zecchini. Beve. Da sé. Ora viene con una seconda stoccata. Beve. E non me li ha mandati. Il Li manderà un'altra volta. punto sta. Il punto sta. Finisce di bere. Tenete. Dà la chicchera al servitore. Il punto sta che sono in un grande impegno e non so come fare. 8 giorni più, 8 giorni meno. Ma voi che siete cavaliere, sapete quel che vuol dire il mantenere la parola. Sono in impegno e, corpo di Bacco, darei della pugna in cielo. Mi dispiace di vedervi scontento. Da sé. Se sapessi come uscirne con reputazione. Voi avreste difficoltà per 8 giorni di farmi il piacere? Caro marchese, se potessi, vi servirei di cuore. Se li avessi, ve li avrei esibiti addirittura. Ne aspetto e non ne ho. Non mi darete ad intendere d'essere senza denari. Osservate. Ecco tutta la mia ricchezza. Non arrivano a 2 zecchini. Mostra uno zecchino e varie monete. Quello è uno zecchino d'oro. Sì, l'ultimo. Non ne ho più. Prestatemi quello, che vedrò intanto. Ma io poi? Di che avete paura? Ve lo renderò. Non so che dire. Servitevi. Gli dà lo zecchino. Ho un affare di premura, amico. Obbligato per ora. Ci rivediamo a pranzo. Prende lo zecchino e parte. Scena quattordicesima. Cavaliere, solo. Bravo! Il signor Marchese mi voleva frecciare 20 zecchini e poi si è contentato di uno. Finalmente uno zecchino non mi preme di perderlo. E se non me lo rende, non mi verrà più a seccare. Mi dispiace più che mi ha bevuto la mia cioccolata. Che indiscretezza. E poi, son chi sono. son cavaliere, o garbatissimo cavaliere. Scena quindicesima. Mirandolina con la biancheria. E detto. Mirandolina, entrando con qualche soggezione. Permette, illustrissimo. Con asprezza. Che cosa volete? Ecco qui della biancheria migliore. S'avanza un poco. Bene, mettetela lì. Accenna il tavolino. La supplico, almeno degnarsi vedere se è di suo genio. Che roba è? Le lenzuola son di Renza. S'avanza ancor più. Renza? Sì, signore, di 10 paoli al braccio. Osservi. Non pretendevo tanto. Bastavami qualche cosa meglio di quel che mi avete dato. Questa biancheria l'ho fatta per personaggi di merito, per quelli che la sanno conoscere. E in verità, illustrissimo, la do per esser lei. Ad un altro non la darei. Per esser lei? Solito complimento. Osservi il servizio di tavola. Oh, queste tele di Fiandra, quando si lavano, perdono assai. Non vi è bisogno che le insudiciate per me. Per un cavaliere della sua qualità non guardo a queste piccole cose. Di queste salviette ne ho parecchie e le serberò per Vossignoria illustrissima. Da sé. Non si può però negare che costei non sia una donna obbligante. Da sé. Veramente ha una faccia burbera da non piacergli le donne. Date la mia biancheria al mio cameriere, o ponetela lì, in qualche luogo. Non vi è bisogno che vi incomodiate per questo. Oh, io non mi incomodo mai quando servo cavaliere di sì alto merito. Bene, bene, non occorre altro. Da sé. Costei vorrebbe adularmi. Donne, tutte così. La metterò nell'arcova. Con serietà. Sì, dove volete. Da sé. Oh, piede il duro, ho paura di non fare niente. Va a riporre la biancheria. Da sé. I gonzi sentono queste belle parole, credono a chi le dice e cascano. Ritornando senza la biancheria. A pranzo, che cosa comanda? Mangerò quello che vi sarà. Vorrei pur sapere il suo genio, se le piace una cosa più dell'altra. Lo dica con libertà. Se vorrò qualche cosa, lo dirò al cameriere. Ma in queste cose gli uomini non hanno l'attenzione e la pazienza che abbiamo noi donne. Se le piacesse qualche intingoletto, qualche salsetta, favorisca di dirlo a me. Vi ringrazio, ma neanche per questo verso vi riuscirà di far con me quello che avete fatto col conte e col marchese. Che dice della debolezza di quei due cavalieri? Vengono alla locanda per alloggiare e pretendono poi di voler far all'amore con la locandiera. Abbiamo altro in testa noi che dar retta alle loro ciarle. Cerchiamo di fare il nostro interesse. Se diamo loro delle buone parole, lo facciamo per tenerli a bottega. E poi io principalmente quando vedo che si lusingano rido come una pazza. Brava. Mi piace la vostra sincerità. Oh, non ho altro di buono che la sincerità. Ma però, con chi vi fa la corte, sapete fingere. Io? Fingere? Guardimi il cielo. Domandi un poco a quei due signori che fanno gli spasimati per me se ho mai dato loro un segno d'affetto. Se ho mai scherzato con loro in maniera che si potessero lusingare con fondamento. Non li strapazzo perché il mio interesse non lo vuole, ma poco meno. Questi uomini effeminati non li posso vedere, e siccome aborrisco anche le donne che corrono dietro agli uomini. Vede, io non sono una ragazza, ho qualche annetto, non sono bella, ma ho avuto delle buone occasioni, eppure non ho mai voluto maritarmi perché stimo infinitamente la mia libertà. Oh sì, la libertà è un gran tesoro. E tanti la perdono scioccamente. So io ben quel che faccio, alla larga. A mo' moglie, vostra signoria illustrissima? Il cielo me ne liberi, non voglio donne. Bravissimo, si conservi sempre così. Le donne, signore, basta, a me non tocca dirne male. Voi siete peraltro la prima donna che io senta parlar così. Le dirò. Noi altre locandiere vediamo e sentiamo delle cose assai, e in verità compatisco quegli uomini che hanno paura del nostro sesso. Da sé. È curiosa costei. Con permissione di vostra signoria illustrissima. Finge voler partire. Avete premura di partire? Non vorrei esserle importuna. No, mi fate piacere. Mi divertite. Vede, signore, così fa con gli altri. Mi trattengo qualche momento. Sono piuttosto allegra, dico delle barzellette per divertirli. Ed essi subito credono se la mi intende e mi fanno i cascamorti. Questo accade perché avete buona maniera. Con una riverenza. Troppa bontà, illustrissimo. Ed essi si innamorano. Guardi che debolezza. Innamorarsi subito di una donna. Questa io non l'ho mai potuta capire. Bella fortezza, bella virilità. Debolezze, miserie umane. Questo è il vero pensare degli uomini. Signor cavaliere, mi porga la mano. Perché volete che io vi porga la mano? Favorisca, si degni, osservi, son pulita. Ecco la mano. Questa è la prima volta che ho l'onore d'aver per la mano un uomo che pensa veramente da uomo. Ritira la mano. Via, basta così. Ecco, se io avessi preso per la mano uno di quei due signori sguaiati, avrebbe tosto creduto che io spasimassi per lui. Sarebbe andato in deliquio. Non darei loro una semplice libertà per tutto l'oro del mondo. Non sanno vivere. Oh, benedetto in conversare alla libera, senza attacchi, senza malizia, senza tante ridicole scioccherie. Illustrissimo, perdoni la mia impertinenza. Dove posso servirla? Mi comandi con autorità e avrò per lei quell'attenzione che non ho mai avuto per alcuna persona di questo mondo. Per quale motivo avete tanta parzialità per me? Perché oltre il suo merito, oltre la sua condizione, sono almeno sicura che con lei posso trattare con libertà, senza sospetto che voglia fare cattivo uso delle mie attenzioni e che mi tenga in qualità di serva, senza tormentarmi con pretensioni ridicole, con caricature affettate. Da sé. Che diavolo ha costei di stravagante che io non capisco? Da sé. Il satiro si anderà poco a poco addomesticando. Orsù, se avete da badare alle cose vostre, non restate per me. Sì, signore, vado ad attendere alle mie faccende di casa. Queste sono i miei amori, i miei passatempi. Se comanderà qualche cosa, manderò il cameriere. Bene, se qualche volta verrete anche voi, vi vedrò volentieri. Io veramente non vado mai nelle camere dei forestieri, ma da lei ci verrò qualche volta. Da me? Perché? Perché, illustrissimo signore, ella mi piace assaissimo. Vi piaccio? Io? Mi piace perché non è effeminato e perché non è di quelli che si innamorano. Da sé. Mi caschi il naso se avanti domani non l'innamoro. Scena sedicesima. Cavaliere, solo. So io quel che fo. Con le donne, alla larga. Costei sarebbe una di quelle che potrebbero farmi cascare più delle altre. Quella verità, quella scioltezza di dire, è cosa poco comune. Ha un non so che di straordinario. Ma non per questo mi lascerei innamorare. Per un poco di divertimento mi farei piuttosto con questa che con un'altra. Ma per fare all'amore? Per perdere la libertà? Non vi è pericolo. Pazzi, pazzi quelli che si innamorano delle donne. Parte. Scena diciassettesima. Altra camera di Locanda, Ortensia, Deianira, Fabrizio. Che restino servite qui, illustrissime, osservino quest'altra camera, quella per dormire, e questa per mangiare, per ricevere, per servirsene come comandano. Va bene, va bene. Siete voi padrone o cameriere? Cameriere, ai comandi di Vossignoria illustrissima. Piano a Ortensia, ridendo. Ci dà delle illustrissime. Bisogna secondare il lazzo. Cameriere? Illustrissima? Dite al padrone che venga qui. Voglio parlare con lui per il trattamento. Verrà la padrona. La servo subito. Da sé. Chi diamine saranno queste due signore così sole? All'aria, all'abito, paiono dame. Parte. Scena diciottesima. Deianira e Ortensia. Ci dà delle illustrissime. Ci ha creduto due dame. Bene, così ci tratterà meglio. Ma ci farà pagare di più. Circa i conti avrà da fare con me. Sono degli anni assai che cammino il mondo. Non vorrei che con questi titoli entrassimo in qualche impegno. Cara amica, siete di poco spirito. Due commedianti avvezze a far sulla scena da contesse, da marchese e da principesse, avranno difficoltà a sostenere un carattere sopra di una locanda? Verranno i nostri compagni e subito ci sbianchiranno. Per oggi non possono arrivare a Firenze. Da Pisa qui in navicello ci vogliono almeno 3 giorni. Guardate che bestialità! Venire in navicello! Per mancanza di lugagni? È assai che siamo venute noi in calesse. È stata buona quella recita di più che abbiamo fatto. Sì, ma se non stavo io alla porta, non si faceva niente. Scena diciannovesima. Fabrizio ed Ette. La padrona Aurora sarà a servirle. Bene. Ed io le supplico a comandarmi. Ho servito altre dame. Mi darò l'onor di servir con tutta l'attenzione anche le signorie loro illustrissime. Occorrendo, mi varrò di voi. Da sé. Ortensia queste parti le fa benissimo. Intanto le supplico, illustrissime signore, favorirmi il loro riverito nome per la consegna. Tira fuori un calamaio ed un libriccino. Ora viene il buono. Perché ho da dare il mio nome? Noi altri locandieri siamo obbligati a dare il nome, il casato, la patria e la condizione di tutti i passeggeri che alloggiano alla nostra locanda. E se non lo facessimo, meschini noi! Piano ad Ortensia. Amica, i titoli sono finiti. Molti daranno anche il nome finto. In quanto a questo, poi, noi altri scriviamo il nome che ci dettano e non cerchiamo di più. Scrivete. La baronessa Ortensia del Poggio, palermitana. Scrivendo. Siciliana, sangue caldo. A Deianira. Ella, illustrissima? Ed io... non so che mi dire. Via, contessa Deianira, date il vostro nome. A Deianira. Vi supplico. A Fabrizio. Non l'avete sentito? Scrivendo. L'illustrissima signora contessa Deianira. Il cognome? A Fabrizio. Anche il cognome? A Fabrizio. Sì, dal sole, romana. Non occorre altro, perdonino l'incomodo. Ora verrà la padrona. Da sé. L'ho io detto che erano due dame. Spero che farò dei buoni negozi. Mance non ne mancheranno. Parte. Si burlano vicendevolmente. Serva umilissima della baronessa. Contessa, a voi m'inchino. Qual fortuna mi offre la felicissima congiuntura di rassegnarvi il mio profondo rispetto? Dalla fontana del vostro cuore scaturir non possono che torrenti di grazie. Scena ventesima. Mirandolina ed Ette. Ad Ortensia, con caricatura. Madama, voi mi adulate. Fa lo stesso. Contessa, al vostro merito ci converrebbe assai più. Da sé, in disparte. Oh, che dame cerimoniose. Da sé. Oh, quanto mi vien da ridere. Piano Deianira. Zitto, è qui la padrona. M'inchino a queste dame. Buongiorno, quella giovane. A Mirandolina. Signora padrona, vi riverisco. Ehi! Facenno a Deianira, che si sostenga. Ad Ortensia. Permetta che io le baci la mano. Siete obbligante. Le dà la mano. Anch'ella, illustrissima. Chiede la mano a Deianira. Non importa. Via, gradite le finezze di questa giovane, datele la mano. La supplico. Tenete. Le dà la mano, si volta e ride. Ride, illustrissima? Di che? Che cara contessa, ride ancora di me. Ho detto uno sproposito che l'ha fatta ridere. Da sé. Io giocherei che non son dame. Se fossero dame, non sarebbero sole. A Mirandolina. Circa il trattamento, converrà poi discorrere. Ma sono sole? Non hanno cavalieri, non hanno servitori, non hanno nessuno? Il barone mio marito? Perché ride, signora? Via, perché ridete? Rido del barone, di vostro marito. Sì, è un cavaliere giocoso, dice sempre delle barzellette. Verrà quanto prima col conte Orazio, marito della contessina. Deianira fa forza per trattenersi dal ridere. A Deianira. La fa ridere anche il signor conte? Ma via, contessina, tenetevi un poco nel vostro decoro. Signore mie, favoriscano in grazia. Siamo sole, nessuno ci sente. Questa contea... Questa baronia sarebbe mai... Che cosa vorreste voi dire? Mettereste in dubbio la nostra nobiltà? Perdoni, illustrissima, non si riscaldi, perché farà ridere la signora contessa. E via, che serve? Contessa, contessa! A Deianira. Io so che cosa voleva dire, illustrissima. Se l'indovinate, vi stimo assai. Volevate dire... Che serve che fingiamo d'essere due dame se siamo due pedine? Eh? Non è vero? A Mirandolina. E che sì che ci conoscete. Che brava commediante. Non è buona da sostenere un carattere. Fuori di scena io non so fingere. Brava, signora baronessa. Mi piace il di lei spirito. Lodo la sua franchezza. Qualche volta mi prendo un poco di spasso. Ed io amo infinitamente le persone di spirito. Servitevi pure nella mia locanda, che siete padrone. Ma vi prego bene, se mi capitassero persone di rango, cedermi questo appartamento, ch'io vi darò dei camerini assai comodi. Sì, volentieri. Ma io, quando spendo il mio denaro, intendo voler essere servita come una dama, e in questo appartamento ci sono e non me ne anderò. Via, signora baronessa, sia buona. Oh, ecco un cavaliere che ha alloggiato in questa locanda. Quando vede donne, sempre si caccia avanti. È ricco? Io non so i fatti suoi. Scena ventunesima. Il marchese ed Ette. È permesso? Si può entrare? Per me è padrone. Servo di lor signore. Serva umilissima. La riverisco divotamente. A Mirandolina. Sono forestiere? Eccellenza, sì. Sono venute ad onorare la mia locanda. Da sé. È un'eccellenza, Capperi. Da sé. Già, Ortensia lo vorrà per sé. A Mirandolina. E chi sono queste signore? Questa è la baronessa Ortensia del Poggio, e questa la contessa Deianira dal Sole. Oh, compitissime dame. E ella chi è, signore? Io sono il marchese di Forlipopoli. Da sé. La locandiera vuol seguitare a far la commedia. Godo aver l'onore di conoscere un cavaliere così compito. Se vi potessi servire, comandatemi. Ho piacere che siate venute ad alloggiare in questa locanda. Troverete una padrona di garbo. Questo cavaliere è pieno di bontà. Mi onora della sua protezione. Sì, certamente. Io la proteggo e proteggo tutti quelli che vengono nella sua locanda. E se vi occorre nulla, comandate. Occorrendo mi prevarrò delle sue finezze. Anche voi, signora contessa, fate capitale di me. Potrò ben chiamarmi felice se avrò l'alto onore di essere annoverata nel ruolo delle sue umilissime serve. Ad Ortensia. Ha detto un concetto da commedia. A Mirandolina. Il titolo di contessa l'ha posta in soggezione. Il marchese tira fuori di tasca un bel fazzoletto di seta, lo spiega e finge volersi asciugar la fronte. Un gran fazzoletto, signor marchese. A Mirandolina. Ah, che ne dite? È bello? Sono di buon gusto io? Certamente di ottimo gusto. Ad Ortensia. Ne avete più veduti di così belli? È superbo, non ho veduto il compagno. Da sé. Se me lo donasse lo prenderei. A Deianira. Questo viene da Londra. È bello, mi piace assai. Son di buon gusto io? Da sé. E non dice a vostri comandi. Mi impegno che il conte non sa spendere. Getta via il denaro e non compra mai una galanteria di buon gusto. Il signor marchese conosce, distingue, sa, vede, intende. Piega il fazzoletto con attenzione. Bisogna piegarlo bene, a ciò non si guasti. Questa sorta di roba bisogna custodirla con attenzione. Tenete. Lo presenta Mirandolina. Vuole che io lo faccia mettere nella sua camera? No. Mettetelo nella vostra. Perché? Nella mia? Perché? Ve lo dono. Oh, eccellenza, perdoni. Tant'è, ve lo dono. Ma io non voglio. Non mi fate andare in collera. Oh, in quanto a questo poi, il signor marchese lo sa, io non voglio disgustar nessuno. A ciò non vado in collera. Lo prenderò. Ad Ortensia. Oh, che bellazzo! A Deianira. E poi dicono delle commedianti. Ad Ortensia. Ah, che dite? Un fazzoletto di quella sorta l'ho donato alla mia padrona di casa. È un cavaliere generoso. Sempre così. Da sé. Questo è il primo regalo che mi ha fatto e non so come abbia avuto quel fazzoletto. Signor Marchese, se ne trovano di quei fazzoletti in Firenze? Avrei volontà d'averne uno compagno. Compagno di questo sarà difficile, ma vedremo. Da sé. Brava, signora contessina. Signor marchese, voi che siete pratico della città, fatemi il piacere di mandarmi un bravo calzolaro, perché ho bisogno di scarpe. Sì, vi manderò il mio. Da sé. Tutte alla vita, ma non ce n'è uno per la rabbia. Caro signor marchese, favorirà tenerci un poco di compagnia? Favorirà pranzo con noi? Sì, volentieri. Ehi, Mirandolina, non abbiate gelosia. Son vostro, già lo sapete. Al marchese. S'accomodi pure. Ho piacere che si diverta. Voi sarete la nostra conversazione. Non conosciamo nessuno. Non abbiamo altri che voi. Oh, care le mie damine, vi servirò di cuore. Scena ventiduesima. Il conte e Detti. Mirandolina, io cercavo voi. Son qui con queste dame. Dame? M'inchino umilmente. Serva divota. Piano a Deianira. Questo è un guasco più badia di quell'altro. Piano ad Ortensia. Ma io non sono buona per miccheggiare. Piano a Mirandolina. Ehi, mostrate al conte il fazzoletto. Osservi, signor conte, il bel regalo che mi ha fatto il signor marchese. Mostra il fazzoletto al conte. Oh, me ne rallegro. Bravo, signor marchese. Niente, niente, bagatelle. Riponetelo via, non voglio che lo diciate. Quel che fo, non sa da sapere. Da sé. Non sa da sapere. E me lo fa mostrare. La superbia contrasta con la povertà. A Mirandolina. Con licenza di queste dame, vorrei dirvi una parola. S'accomodi con libertà. A Mirandolina. Quel fazzoletto in tasca lo manderete a male. lo riporrò nella bambagia perché non si ammacchi. A Mirandolina. Osservate questo piccolo gioiello di diamanti. Bello assai. Il compagno degli orecchini che vi ho donato. Ortensia e Yanira osservano e parlano piano fra loro. Certo, è compagno, ma è ancora più bello. Da sé. Sia maledetto il conte, i suoi diamanti, i suoi denari e il suo diavolo che se lo porti. A Mirandolina. Ora, perché abbiate il fornimento, compagno, ecco ch'io vi dono il gioiello. Non lo prendo assolutamente. Non mi farete questa male creanza? Oh, delle male creanze non le faccio mai. Per non disgustarla, lo prenderò. Ortensia e Yanira parlano come sopra, osservando la generosità del conte. Ah, che ne dice, signor Marchese? Questo gioiello non è galante. Nel suo genere, il fazzoletto è più di buon gusto. Sì, ma da genere a genere vi è una bella distanza. Bella cosa, vantarsi in pubblico di una grande spesa. Sì, sì, voi fate i vostri regali in segreto. Da sé. Posso ben dire con verità questa volta che fra i due litiganti il terzo gode. È così, damine mie. Sarò a pranzo con voi. Al conte. Quest'altro signore chi è? Sono il conte d'Alba Ferita, per obbedirvi. Capperi, è una famiglia illustre. Io la conosco. Anch'ella s'accosta al conte. A Deianira. Sono a vostri comandi. Al conte. È qui alloggiato? Sì, signora. Al conte. Si trattiene molto? Credo di sì. Signore mie, sarete stanche di stare in piedi? Volete che io vi serva nella vostra camera? Obbligatissima. Con disprezzo. Di che paese è, signor conte? Napolitano. Oh, siamo mezzi patrioti. Io sono palermitana. Io sono romana, ma sono stata a Napoli e, appunto per un mio interesse, desiderava parlare con un cavaliere napolitano. Vi servirò, signore. Siete sole? Non avete uomini? Ci sono io, signore, e non hanno bisogno di voi. Siamo sole, signor conte, poi vi diremo il perché. Mirandolina. Signore? Fate preparare nella mia camera per tre. Ad Ortensia e Deianira. Vi degnerete di favorirmi? Riceveremo le vostre finezze. Ma io sono stato invitato da queste dame. Essi sono padrone di servirsi come comandano, ma alla mia piccola tavola in più di tre non ci si sta. Vorrei vedere anche questa. Andiamo, andiamo, signor conte. Il signor Marchese ci favorirà un'altra volta. Parte. Signor Marchese, se trova il fazzoletto, mi raccomando. Parte. Conte, conte, voi me la pagherete. Di che vi lagnate? Son chi sono e non si tratta così. Basta. Colei vorrebbe un fazzoletto? Un fazzoletto di quella sorta? Non l'avrà. Mirandolina, tenetelo caro. Fazzoletti di quella sorta non se ne trovano. Dei diamanti se ne trovano, ma dei fazzoletti di quella sorta non se ne trovano. Parte. Da sé. Oh, che bel pazzo! Cara Mirandolina, avrete voi dispiacere ch'io serva queste due dame? Niente affatto, signore. Lo faccio per voi. Lo faccio per accrescere utile e avventori alla vostra locanda. Per altro, io son vostro e vostro il mio cuore. E vostre son le mie ricchezze, delle quali disponete liberamente che io vi faccio padrona. Parte. Scena 23esima. Mirandolina, sola. Con tutte le sue ricchezze, con tutti i suoi regali, non arriverà mai ad innamorarmi. E molto meno lo farà il marchese con la sua ridicola protezione. Se dovessi attaccarmi ad uno di questi due, certamente lo farei con quello che spende più. Ma non mi preme né dell'uno né dell'altro. Sono in impegno di innamorare il cavaliere di Ripafratta e non darei un tal piacere per un gioiello il doppio più grande di questo. Mi proverò. Non so se avrò l'abilità che hanno quelle due brave comiche, ma mi proverò. Il conte e il marchese, frattanto, con quelle si vanno trattenendo. Mi lasceranno in pace e potrò a mio bel agio trattar col cavaliere. Possibile che io non ceda? Chi è quello che possa resistere a una donna quando le dà tempo di poter far uso dell'arte sua? Chi fugge non può temer d'esser vinto, ma chi si ferma, chi ascolta e se ne compiace, deve o presto o tardi a suo dispetto cadere. Parte. Fine primo atto.